Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1870, la Francia sconfitta dalla Prussia. La Prussia è ormai vincitrice, la Francia alle corde, Napoleone III un prigioniero di guerra, a Parigi è scoppiata la rivoluzione mentre le armate prussiane si preparano a conquistarla e la neonata Repubblica Francese instaurata il 4 settembre sulle macerie di un impero ormai finito fatica a coordinare una ultima difesa. La guerra franco-prussiana, il più grande conflitto europeo dai tempi di Napoleone I, sta stravolgendo l'Europa. L'ira della folla che abbatte i simboli del potere bonapartista all'indomani della storica sconfitta di Sedan fotografa bene il dramma francese. L'esercito, dopo aver tentato un attacco, si è trovato circondato nella piccola città sulla Mosa, nelle Ardenne. L'imperatore e il maresciallo MacMahon hanno perso la partita, schiacciati dalla superiorità dei tedeschi, e il Bonaparte ha firmato una capitolazione che il suo paese ha considerato un tradimento, acuito dagli errori politici e militari che hanno portato fin qui. La contesa tra Francia e Prussia, che pare ormai essere fatale ai francesi, è iniziata dopo il no della Prussia all'acquisizione del Lussemburgo da parte di Parigi. Nel 1866 il cancelliere Bismarck aveva dato un mezzo assenso per garantirsi la neutralità di Napoleone III. Poi però la pressione internazionale ha reso quasi obbligato il no di Berlino e dell'Olanda, che aveva la sovranità sul Granducato. Il Lussemburgo è stato neutralizzato e i francesi se la sono legata al dito, coltivando un sentimento antitedesco che li ha portati a cadere nella trappola di Bismarck. Una nuova contesa diplomatica sul futuro della Spagna e un dispaccio dalla cittadina termale di Ems, reso più duro dallo stesso Bismarck, hanno praticamente spinto l'imperatore a una guerra di aggressione che per la Prussia si è rivelata una grande occasione. Ora a Parigi il governo repubblicano di difesa nazionale è fallita, la possibilità di trovare un'intesa per chiedere la pace ai prussiani sta pensando a lasciare la città per non essere catturato in caso di resa. I tedeschi stanno circondando la Ville Lumière. È facile capire che questo significa per l'Italia un sostanziale via libera alla conquista di Roma. Senza la Francia, con l'Austria in grande difficoltà e la Spagna in preda a una rivoluzione che potrebbe persino veder finire sul trono un Savoia, si parla di una possibile offerta della corona spagnola al secondogenito del Re d'Italia, Amedeo, Duca d'Aosta, non c'è in tutta Europa un solo grande stato in grado di proteggere il potere temporale del Papa. A sancirlo, ancora prima di Sedan, è stata una lettera inviata dal ministro degli esteri Visconti Venosta al rappresentante diplomatico italiano a Parigi. Le condizioni che hanno a suo tempo portato alla convenzione di settembre tra Italia e Francia, scrive Visconti Venosta, sono completamente cadute. L'obiettivo che il governo imperiale ha perseguito, cioè di facilitare una conciliazione tra il Santo Padre, i Romani e l'Italia, conformemente ai punti di vista espressi dall'imperatore nella sua lettera a Messier de Touvenel del 26 maggio 1862, è stato non solo mancato, ma è addirittura completamente fallito a causa di circostanze sulle quali è inutile insistere. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.